472. Triglie alla Via Regina. Se le triglie fossero in quantità di circa mezzo chilogrammo, fate un battutino con due spicchi d'aglio e un buon pizzico di prezzemolo. Mettetele al fuoco con olio a buona misura in un tegame o in una teglia dove le triglie possano star distese e quando il soffritto sarà rosolato, fermatelo con sugo di pomodoro semplice. Lasciate bollire alquanto, poi collocateci le triglie rivoltandole nell'intinto a una. Copritele e fatele bollire adagio e quando avranno ritirato buona parte dell'umido, versateci un dito di bicchiere di vino rosso, annacquato con due dita di acqua. Fatele bollire ancora un poco e servitele.